Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salvadanaio. Dispute sugli spazi comuni, liti tra vicini di casa per i rumori molesti o per una perdita d'acqua, dissidi sul calcolo delle spese in base ai millesimi di proprietà o ancora discussioni su un risarcimento giudicato inappropriato per un danno subito dalla nostra automobile. Sono in tutto circa 320.000, si stima, le cause condominiali o relative alle RC auto, le abbiamo messe tutte insieme, che dal 21 marzo prossimo passeranno sul tavolo dei mediatori. Queste figure particolari seguono appositi percorsi di formazione e provengono da ordini professionali anche molto diversi tra di loro, a cui diventerà obbligatorio rivolgersi con l'inizio della prossima primavera, anche per questioni popolari e diffuse come lo sono senz'altro quelle legate ai due ambiti che abbiamo citato, appunto la vita condominiale oppure l'RC auto. Prima di arrivare di fronte ad un giudice, la tappa della mediazione o composizione amichevole delle controversie sarà ormai un tentativo da intraprendere obbligatoriamente. Un anno fa lo era già diventato per altri settori. Clausola cioè di procedibilità per avviare un eventuale processo. Si spera infatti in questo modo di alleggerire un po' gli ingranaggi della nostra giustizia. Ma quali sono i passaggi necessari per avviare l'iter di conciliazione? I meccanismi che lo regolano e che è bene conoscere? Come individuare le figure dei mediatori e soprattutto quali sono le spese da sostenere? Noi oggi torniamo ad affrontare questo argomento, ma visto che ho citato due ambiti, vi anticipo già che noi focalizzeremo la nostra attenzione solo sulla realtà condominiale. Allora, che cosa vi è successo se avete avuto una disavventura condominiale e magari adesso questa nuova strada vi potrà consentire di risolvere in tempi molto anticipati rispetto a quello che potevate immaginare la vostra rogna condominiale? Raccontatecelo all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 9238 6666. Noi vi diremo se è la strada giusta o meno, appunto per ottenere un risultato a vostro favore, insieme a Cristiano Dell'Oste, il Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Non è un caso che lo abbiamo invitato, Cristiano, lo diciamo già subito, perché stamattina il Sole 24 Ore pubblica proprio una delle vostre guide pratiche, quindi pool di esperti a disposizione dei lettori per rispondere a tutte le domande sulla mediazione delle liti, cioè questo iter alternativo per evitare il processo, e focus proprio su questi due settori che ho indicato. Certo, Deborah, è così. Fino alle 18 di oggi, collegandosi al sito del Sole 24 Ore /barra mediazione liti, collegandosi a questo indirizzo è possibile inserire le proprie domande, mandare le proprie domande. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul giornale di domani e poi a seguire online. Hai già avuto modo di dare un'occhiata se sta arrivando qualcosa di interessante? Insomma, l'universo mondo del condominio si presta veramente ad essere affrontato in ogni modo. Questo è un taglio davvero particolare, quello sì, di sicuramente oggi. Il condominio la fa da padrone nelle domande che ci sono arrivate, che ci stanno arrivando in queste ore, e i quesiti sono, diciamo, sempre sulle stesse materie e con un'infinità di variabili possibili, quindi dalla morosità dell'inquilino del condomino che non paga le spese condominiali fino ad arrivare alle modalità di utilizzo del cortile. La cosa interessante è che tutti questi argomenti per le cause avviate a partire dal 21 di marzo prossimo, quindi veramente pochi giorni mancano, dovranno obbligatoriamente passare per la mediazione, e sarà interessante vedere come questo passaggio, come questa procedura potrà offrire una soluzione diversa alla lite. Dico diversa perché spesso capita di vedere in ambito condominiale cause che si protraggono magari anche per 10 anni fino in Cassazione per importi di piccolo valore, andando a questionare in punta di diritto per capire chi ha ragione e chi ha torto. Ecco, la mediazione dovrebbe seguire in questo senso una filosofia un po' diversa, che è quella di fare appello anche a quella che i tecnici del diritto chiamano l'equità, che noi potremmo dire il buon senso volendo, ovvio, e magari di tagliare un po' con l'accetta una questione che, andando a discutere in punta di diritto, potrebbe facilmente protrarsi per anni. Vedremo se funzionerà, perché poi mi è piaciuto il si va a questionare in punta di diritto, tutta colpa degli avvocati, e quindi anche dell'avvocato Augusto Cirla, l'amico di Salvadanaio, che chiaramente andiamo ad interpellare sempre su questi argomenti anche nella sua qualità di segretario nazionale di Assoconda, l'associazione italiana condomini. Buongiorno avvocato, bentornato. Buongiorno. Colpa vostra se le cause condominiali si trascinano per tempi, per insomma periodi lunghissimi? direi in parte sì e in parte no. In parte cominciamo dal no, perché c'è da dire che i giudici ormai sono intasati. E quando gli avvocati si presentano davanti ai giudici e chiedere magari dei rinvii di udienza brevi, il giudice apre le mani e fa vedere l'agenda, e quindi sinceramente dà dei rinvii lunghissimi, non perché li vuole lui, ma perché proprio soprattutto nella materia condominiale c'è l'assalto all'arma bianca, passatemi il termine, perché i condomini subito in qualsiasi cosa vogliono andare dal giudice. In parte sì, perché a volte insomma l'avvocato per il bene del cliente, per convenienza del cliente, tira un po' in lungo. Certo. Da qui il bello della mediazione, alla quale sono assolutamente favorevole. Infatti volevo chiederle anche un giudizio, quindi insomma anche per voi sarà un aiuto per smaltire anche, credo, le pratiche che in associazione dovete affrontare e gestire ogni anno. Certamente. Nella mediazione bisogna crederci, perché se cominciamo a dire ma forse vedremo, non so, gli avvocati cosa ci fanno, dicono assolutamente no. Soprattutto nella materia condominiale io credo che la mediazione sia proprio il toccasana. Benissimo, allora adesso andremo ai casi concreti degli ascoltatori. Vi devo raccontare per un attimo anche che cosa succede in borsa, ma questo è di stamattina, sono già sicura sarà un tema talmente appassionante per i nostri ascoltatori che la voglio solo dare velocemente. Abbiamo una partenza negativa per la settimana con Milano che cede l'1,28%, Parigi -0,8%, Francoforte -1,14%, Londra -0,4%, l'euro ha tentato di riagganciare 1,32% sul dollaro, adesso ha riperso questa soglia. In difficoltà le banche stamattina a Piazza Affari, che hanno corso tanto da quando la Banca Centrale Europea, ma anche da prima, ha erogato questo nuovo maxi finanziamento a tasso agevolatissimo la settimana scorsa di oltre 500 miliardi, appunto le banche avevano ripreso a correre. Oggi invece sulle banche pesa il decreto liberalizzazione del governo e la misura sull'azzeramento delle commissioni sui fidi, e poi anche Banca Italia ha detto attenzione banche italiane, datevi una regolata sulla remunerazione agli azionisti, sulla politica dei dividendi e sulle remunerazioni bonus ai vostri manager, e questo stamattina trascina a ribasso il settore. Direi che questi sono un po' i temi principali. Lo spread fra BTP e Bund è intorno ai 313 punti base, stamattina è ripartito di nuovo intorno a 319, poi è risceso di nuovo. Questo per ciò che riguarda la borsa. Vi voglio ricordare un'altra cosa, un'informazione di servizio. Abbiamo parlato della guida in edicola oggi con Il Sole 24 Ore, ma vi ricordo che domani e solo domani, a 50 centesimi oltre al prezzo del quotidiano, Il Sole offre in esclusiva la grande inchiesta, l'anno che ha cambiato la vita degli italiani, su tutte le novità per i cittadini, consumatori e contribuenti che si sono avvicendati in questo periodo di forti cambiamenti economico-politici. Il volume, appunto, ve lo ribadisco, si chiama L'anno che ha cambiato la vita degli italiani e si può acquistare appunto con Il Sole 24 Ore con una cifra di 50 centesimi oltre al prezzo del quotidiano. Questa è l'informazione di servizio, andiamo alla mediazione obbligatoria. L'obiettivo della mediazione, introdotta con la riforma del processo civile del 2009, è quello di ridurre la mole di cause ancora da smaltire ed impedire dunque sul nascere che determinate controversie approdino nei tribunali. Il tutto riducendo i tempi della macchina della giustizia. E dopo le liti in materia di locazione, di successioni, per il risarcimento dei danni provocati da un medico o ancora, ad esempio, per le controversie con la propria banca, dal prossimo 21 marzo la conciliazione diventerà a tutti gli effetti obbligatoria anche per le questioni condominiali e le dispute legate all'RC auto. Anche in questi casi, d'ora in poi, il giudice, prima di procedere, dovrà verificare che le parti abbiano prima tentato la strada della risoluzione amichevole. In caso negativo, rispedirà le parti in conciliazione. Sarà quindi importante per condomini e automobilisti conoscere bene il funzionamento di questo nuovo strumento, in modo tale da saperne sfruttare le opportunità e far valere i propri diritti sotto il controllo di arbitri super partes, i mediatori appunto. La conciliazione sarà quindi tappa obbligata, ad esempio, per sciogliere classici nodi della vita condominiale. Modifica dei millesimi, riparazione dei danni, divisione delle spese, ma anche impugnazione delle delibere dell'assemblea. Molto dipende sempre, in ogni caso, dalla natura della lite. Resteranno, ad esempio, molto difficili da risolvere le questioni che vedono necessaria la presenza di tutti i condomini e il voto all'unanimità. Proprio per le sue finalità di snellimento delle procedure, infatti, l'iter prevede una durata massima di 4 mesi dal momento in cui è presentata la domanda. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, è il mediatore stesso a dover formulare una propria proposta di conciliazione. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. L'alternativa che avete è quella di scriverci al 349-238-6666 e l'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete animare la discussione sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, anche se vedo che stamattina, siccome pubblichiamo anche tante notizie relative all'attualità, il tema che ha fatto più discutere i nostri ascoltatori è quello del nuovo aumento della benzina, che ormai continua a toccare di giorno in giorno nuovi record, rendendo davvero insostenibile il pieno. Qua non c'è mediazione che tenga, Cristiano, non ci può. Direi proprio di no. Assolutamente, in questo caso. Bisogna stare a casa oppure fare come l'avvocato Cirla, che va in moto, anche se stamattina non ha potuto raggiungerci. Prima di entrare nel merito delle dispute condominiali e la modalità con cui si può esperire, perché così si dice in gergo, la mediazione obbligatoria, Cristiano, ti chiedo chi sono questi mediatori, a quale figure ci possiamo rivolgere, perché forse anche su questo va fatta un po' di chiarezza. Ma sì, direi assolutamente sì. Diciamo che i mediatori sono professionisti, sono soggetti che già esercitano, come dire, altre professioni. Si può pensare, ad esempio, molti avvocati, per esempio, si stanno proponendo come mediatori. Sono soggetti che devono aver sostenuto un corso e sono soggetti che lavorano poi, che trovano i propri clienti tramite l'appoggio degli organismi di mediazione. Se io ne volessi trovare uno vicino a casa mia, ci sono degli albi, degli ordini, oppure devo andare su internet? Guarda, come faccio? Direi che la ricerca su internet è sicuramente la via più rapida. Ci sono ormai un migliaio di soggetti che operano come organismi di mediazione, più ovviamente l'esercito dei mediatori che si appoggia a questi operatori. Una cosa possiamo andare a precisare rispetto a quello che sentivamo nella scheda, e che poi dipende dalla scelta che fa l'organismo di mediazione, cioè il fatto che le parti, allora, se le parti si mettono d'accordo, è fatta, abbiamo fatto bingo, la mediazione funziona, il mediatore stende il verbale e con quel verbale poi firmato dalle parti, se per caso una delle due poi non pagasse o non facesse quanto è sancito nel verbale, si può andare dal giudice, quello è titolo subito esecutivo e quindi si avvia la procedura. Se invece le parti non si mettono d'accordo, non è scontato che il mediatore formuli una proposta, nel senso che se il regolamento dell'organismo di mediazione per cui lavora quel mediatore lo prevede, e quindi le parti già dall'inizio lo sanno, allora viene formulata la proposta. Oppure, se il regolamento non lo prevede, il mediatore ha il potere di fare la proposta soltanto se entrambe le parti glielo chiedono. Se no, se le parti non glielo chiedono, il mediatore non fa nessuna proposta. Quindi ci sono mediatori che funzioneranno in un certo modo e altri che funzioneranno in un altro? Assolutamente. A seconda dell'organismo al quale appartengono, sotto questo aspetto e anche sotto altri aspetti minori. Diciamo che questo è il più importante, perché ovviamente se io cito te, Deborah Rosciani, davanti a un mediatore perché abbiamo una lite in corso, un conto è sapere che se noi non ci mettiamo d'accordo, comunque il mediatore farà la propria proposta, alla quale poi noi potremo aderire o meno, attenzione. Però il fatto che ci sia una proposta peserà poi nel corso del giudizio successivo. Un altro discorso invece è sapere che se noi due non ci metteremo d'accordo, allora a quel punto io potrò poi eventualmente decidere di andare davanti al giudice con tutto ciò che ne consegue in termini di tempi, di costi e di procedura più lunga. Avvocato Cirla, voi come Associazione Italiana Condomini, come Assocond, suggerirete ai vostri associati che magari vi chiederanno appunto un suggerimento su quale figura di mediatore è più idonea a risolvere la propria situazione, di praticare una strada piuttosto che un'altra, oppure sarà indifferente? No, certamente daremo delle indicazioni in questo mare magnum, passatemi il termine, di ormai organismi di conciliazione che sono sorti in tutta Italia, daremo quelli che secondo noi sono più autorevoli, perché così ce ne sono. Anche per quanto riguarda i mediatori, anche qua c'è proprio la corsa a diventare mediatore. Ci sono esperienze positive e esperienze negative. Ad esempio, noi siamo abbastanza contrari, come accennava prima Cristiano Dell'Oste, sulla possibilità del mediatore di fare la proposta. Attenzione, perché in alcuni casi diventa pericolosissima. Mi spiego. le conseguenze della mancata accettazione della proposta poi si ripercuotono nel giudizio, perché proprio la disciplina dettata per la mediazione lo dice espressamente: se la proposta formulata dal mediatore è poi disattesa da una delle parti, poi dopo si scopre che il giudizio in realtà si adegua a questa proposta, ahimè ci sono delle sanzioni a livello di spese legali che il giudice può rifiutarsi e via dicendo. E questo, a mio parere, è un po' forzato, perché dà, credo, un potere al mediatore che in realtà non spetta, quello di forzare la mano magari verso certe proposte, minacciando, tra virgolette, dicendo state attenti perché sennò il giudice poi vi darà torto. Certo, ritengo che se arriva a questa forzatura viene snaturato tutto il principio anche della mediazione, credo che comunque qualora uno delle due parti che esperiscono, si dice così, la strada della mediazione, spero che tutte le parti in causa sappiano che la mediazione ha un valore, proprio perché si deve mediare due posizioni che sono chiaramente contrapposte, si deve dare ad un'intesa che poi non potrà chiaramente dare completa ragione né all'una né all'altra parte, per cui avvocato, però ecco, tutto quello che abbiamo detto è giusto che venga preso in considerazione, e soprattutto che il mediatore poi alla fine non faccia la parte forte, la parte da leone, appunto imponendo una decisione. Se è richiesto dalle parti ben venga. Benissimo. Allora, adesso ci dobbiamo fermare, abbiamo già la prima pausa, poi sentiremo due ascoltatori, Federica da Roma e Marcello da Varese, che ci rappresenteranno i loro casi, e cercheremo di capire se la strada della mediazione è corretta o se devono subito, come dire, rinunciare a chiacchierare con civiltà con la persona, appunto, con la quale evidentemente hanno avuto un conflitto o una lite, andare direttamente dal giudice e scavalcare appunto questo nuovo istituto che adesso invece è diventato obbligatorio per dirimere le cause condominiali. Eccoci ritrovati in diretta, oggi abbiamo preso la guida delle Sole 24 Ore, la guida pratica che peraltro ha messo a disposizione un bel pool di esperti ai quali vi potete rivolgere collegandovi al sito www.ilsole24ore.com/mediazioneliti, e noi proprio questo è il tema del quale parliamo questa mattina. Affrontiamo la vita di condominio quando capitano appunto delle situazioni di conflittualità o tra singoli condomini oppure tra uno di questi e l'intero condominio, che cosa si deve fare per poter risolvere civilmente la lite. Dal 21 di marzo appunto sarà obbligatorio intraprendere la strada della mediazione. Questa novità riguarda non solo la vita condominiale ma anche l'RC auto. Noi oggi il Sole 24 Ore affronta entrambi gli ambiti, noi oggi però ci soffermiamo con Cristiano Dell'Oste e l'avvocato Augusto Cirla solo sulla questione condominiale. Allora, tra l'altro, prima di sentire le domande dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24, avvocato Cirla, volevo chiederle: in ogni caso, anche se la lite è fra due singoli condomini, l'amministratore di condominio va informato della circostanza che le due persone hanno attivato una causa di mediazione appunto per arrivare a risolvere il loro conflitto? Ma io direi di sì, ragione di opportunità lo impongono, nel senso che spesso capita che due condomini vanno in conflitto tra di loro magari per un argomento che seppur indirettamente riguarda il condominio. Un esempio per tutti: l'occupazione del ballatoio tra un appartamento e l'altro, un posto in cortile e quant'altro, quindi è sicuramente utile. Ancor più utile invece quando è l'amministratore che deve andare in mediazione, perché allora a questo punto è più che naturale che debba in qualche modo avvisare i condomini. Perché? Perché anche i condomini possono, semmai volendo, intervenire davanti al mediatore, pur se il condominio è portato con la rappresentanza dell'amministratore. È una cosa utile, una cosa di buona amministrazione avvisare i condomini. L'assemblea di condominio deve dare l'ok all'amministratore per procedere sulla mediazione? Ma guardi, questo è un problema che sicuramente sarà dibattuto. Io dico che per quanto riguarda la mediazione in sé, considerati anche i tempi stretti che dà la legge sulla mediazione per la comunicazione della prima, chiamiamola udienza, della prima riunione, perché sono 15 giorni, cioè nel momento stesso che viene presentata la domanda di mediazione presso i competenti organismi, l'organismo stesso nel termine di 15 giorni deve fissare l'udienza e indicare il mediatore, quindi materialmente il tempo non l'avrebbe l'amministratore. Per organizzare l'assemblea, esattamente. Certo. Dopo sicuramente sì. Allora andiamo un po' ai casi concreti, cominciando da quello di Federica da Roma. Federica, buongiorno, cosa è successo al suo giardino? Federica? Sì, mi sentite? La sentiamo benissimo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, niente, è successo ciò. Io ho acquistato circa 7 anni fa un appartamentino che aveva come unico valore aggiunto questo grosso giardino di circa 600 metri, nel quale praticamente ho speso quasi tutto quello che avevo quando ci sono entrata, per cui 6 o 7 mila euro. Circa 3 anni fa si è rotta l'autoclave ad uso del condominio, e da allora ha avuto inizio, diciamo, tutta la mia passione, perché ovviamente il mio è l'unico giardino così grande per cui non interessa a nessuno riparare questa autoclave, e quindi io ad oggi mi trovo con una specie di landa desolata. Tutto ciò che avevo speso è andato bruciato, soprattutto con queste ultime che due. Che danni le provoca questa rottura? Io Federica, non posso annaffiare nulla di nulla, per cui ho 600 metri di giardino più di 4.000 euro di piante e 2.000 euro di impianto di irrigazione totalmente distrutte, e mi sento però addebitare sulle mie ricevute del condominio il cambiamento delle cassette postali, la rottura dell'ascensore, che io sono dispostissima, in quanto facente parte di un condominio, di pagare, però il mio problema non può essere posto, diciamo, lei all'attenzione dell'amministratore, immagino. Sì, certo, ha fatto tutto quello che doveva fare. Sono un anno che non vado più alle riunioni, perché mi sono scocciata di sentirmi dire che nessuno interessa, che questi soldi, specifico la riparazione, è stata quantificata in una spesa pro capite per famiglia di circa 60 euro. Quindi ad oggi io ho in pugno tutta questa situazione, che già ho fatto periziare con un danno all'incirca di 7 mila euro presso il giudice, che poi si andrebbe comunque a sommare alla spesa che c'è il condominio dove spendere per riparare. Ma Federica, poi adesso per un'ultima, chi è che le dice di no praticamente? Perché questa situazione non va avanti? Perché non viene sistemata questa autoclave? Perché in sede di riunione condominiale si dice va bene, ora si vedrà, non si sono raggiunti i millesimi, e poi appunto io ho smesso di andare quando diversi condomini si sono alzati dicendo ma io il giardino non ce l'ho, per cui non certo, mi interessa. Vabbè. Allora, quindi è come un po' il stesso discorso di avere l'ascensore, è chiaro che chi abita al primo piano paga, come dire, cifre diverse rispetto a chi lo utilizza, abita all'ottavo, però va bene. Allora Federica, la capisco e capisco la sua frustrazione, vediamo un po' che cosa può fare. Avvocato Cirla, quale migliore occasione per andare in mediazione? Direi, questo sì, è il caso, allora, classico. Allora, ci dica un po' il percorso che Federica dovrebbe seguire a questo punto. Ma credo che la prima cosa che debba fare è presentare subito la domanda di mediazione. Teniamo presente che la mediazione non richiede particolari formalità, anzi addirittura invita alla semplicità. Può andarci anche senza avvocato, tanto per intenderci. In questa occasione è chiaro che esponendo al mediatore, confrontandosi con l'amministratore in questa sede sul suo problema, io sono certo che possa trovare una soluzione. Perché? Perché è evidente che l'uso dell'acqua, poter usufruire dell'acquedotto condominiale, diciamo così, è un diritto del singolo condomino. Lasciamo perdere che serva per i bisogni primari o per il giardino, è indifferente. Io il servizio devo averlo, l'amministratore me lo deve avere, ed ecco quindi il classico caso da mediazione di fronte al quale l'amministratore il rifiutare di erogare questo servizio, me la vedo poi bene nell'eventuale successivo giudizio, dove certo, il giudice darà sicuramente torto. Tra l'altro, allora, Federica esperisce la causa di mediazione obbligatoria in questo caso. In quanto tempo deve avere una risposta che sia a suo favore, che sia non completamente a suo favore, ma in ogni caso? E soprattutto, chi è l'altra figura che in un caso come quello di Federica viene chiamata a rispondere di questa circostanza? L'amministratore di condominio, perché mi pare, o il consigliere di questo edificio? Ma sicuramente la rappresentanza ce l'ha l'amministratore, quindi è lui che deve essere chiamato davanti al mediatore, questo è fuori dubbio, però potrebbe essere anche il caso classico che vede la partecipazione anche di alcuni condomini che ovviamente rappresenteranno le loro ragioni al mediatore. Magari quelli che hanno detto di no in sede di assemblea, che si oppongono perché dicono noi l'autoclave non la utilizziamo, non abbiamo il giardino, eccetera. Allora, Cristiano, quanto costa peraltro avviare una causa di mediazione? Perché credo che entrambe le parti debbano versare un piccolo obolo iniziale. Sì, è così. Infatti abbiamo quelle che si chiamano le spese di avvio, che sono 40 euro, è un importo fisso e deve essere pagato sia dalla parte che presenta la domanda, sia dalla parte che viene citata nel momento in cui si presenta. E poi c'è una seconda parte, diciamo, di spese, che adesso, se vuoi, ti dico nel dettaglio. Cercare la pagina al esatto, volo. Perché varia in base al valore della lite, sono le spese di mediazione. Tra l'altro, attenzione, perché ad esempio, se il valore della lite è fino a 1000 euro, la spesa è di 65 euro. Se nel caso, adesso possiamo vedere, della nostra ascoltatrice, esatto, da 5.001 a 10.000 sono 240 euro, visto che lei aveva una quantificazione di questo. Perché lei ha già fatto una quantificazione, no? Quindi lei parte da una cifra che però lei ha stimato. Sì, ti facevo questo esempio per dirti da quindi cosa lei si teoricamente partire. Se facesse partire una causa di mediazione potrebbe mettere in conto diciamo al massimo 280 euro, una cosa di questo che deve genere. Pagare immediatamente deve pagare immediatamente 40 e poi, se si procede, c'è la seconda parte. Attenzione che questo importo che io ti ho detto è fissato da un decreto ministeriale a cui gli organismi di mediazione diciamo non mi dire che sono adeguati al rialzo perché, Ti volevo dire che quelli interamente privati non sono vincolati a questo riferimento, quindi è un altro elemento che si può verificare nel momento in cui si va a scegliere l'organismo. Potrebbero essere anche più convenienti, potrebbero anche essere più convenienti per attirare più clienti. Questo, diciamo che da questo punto di vista la mediazione apre anche un mercato interessante. Pensiamo ad esempio ai giovani avvocati che magari hanno meno lavoro da un punto di vista di cause strutturate. Per loro la mediazione può essere un mercato, lo può essere anche per altri professionisti con estrazione diversa, magari geometri, per le cause con un'impronta più tecnica, come potrebbero essere per i giovani. Sicuramente anche un'ottima palestra per cominciare a frequentare gli ambienti anche dei tribunali, non facendolo secondo i percorsi appunto tradizionali. Allora andiamo al caso di Marcello da Varese. Marcello, buongiorno. Sì, buongiorno. Rapido, grazie. Niente, la mia magari non è proprio specifica sul condominio, perché comunque è una disputa che riguarda una preliminare registrata all'Agenzia delle Entrate, dove è proprio palese, evidente, che comunque si trascinano i tempi così. Io volevo fare un incontro con la controparte, sempre diciamo finalizzata a raggiungere un accordo, anche senza aspettare tutti i tempi e l'iter, diciamo, che il tribunale ha imposto fino a gennaio dell'anno prossimo. Però è già una causa iniziata, sono state fatte già più udienze, quindi e una volta che uno legge, diciamo, il preliminare d'acquisto, io non posso andare all'atto, perché comunque, diciamo, un notaio non mi può fare il trapasso, perché ci sono delle incongruenze e delle cose abusive, quindi penso che rientri anche nel... E quindi lei vorrebbe tirarsi fuori da questo atto già di preliminare di compravendita che ha fatto? No, fare semplicemente un accordo, diciamo, con la controparte, facendola comparire, diciamo, in un ufficio preposto del genere, per vedere se comunque si riesce a trovare l'incontro. Io adesso non è che dico che gli avvocati magari allungano i tempi o quello che è, perché almeno il mio mi sembra molto corretto, però non vorrei che dall'altra parte ci sia del temporeggiare da parte del suo legale per non arrivare non so dove. Allora Marcello, adesso magari questo è un caso un po' particolare, appunto l'ha detto anche lei, rispetto al tema che stiamo affrontando, però lo possiamo sicuramente anche analizzare, perché magari anche nell'ambito condominiale si può verificare. Cristiano, processo già iniziato, procedimento già iniziato, allora, la diciamo mediazione che, si diciamo può... che le regole di cui stiamo parlando adesso non si applicano alle cause in corso, quindi ovviamente per una causa già in corso la mediazione non è obbligatoria, fossimo anche in una materia puramente condominiale in cui è obbligatoria, però in questo caso non dimentichiamoci di una regola generale, cioè che nelle cause civili è sempre possibile arrivare a una transazione, cioè a un accordo con la controparte, al di là del fatto che si utilizzi l'iter della mediazione così come ne abbiamo parlato adesso, che ovviamente in questo caso non potrebbe trovare applicazione, perché qui la filosofia è che prima di andare dal giudice tu devi tentare la mediazione. In questo caso lui dal giudice c'è già arrivato, quindi non si può fare un passo indietro. Ovviamente si può tentare di trovare un accordo con la controparte, questo la legge non lo vieta, anzi lo favorisce. In alcuni casi c'è anche l'istituto che si chiama della mediazione delegata, in cui è il giudice di propria iniziativa a dire alle parti: tentate di trovare una mediazione. Esatto, non fatemi perdere tempo con questa causa, che ve la potete risolvere sicuramente in un'altra sede. Gianni da Roma, buongiorno. Buongiorno signor. Il tema è il seguente, la mia preoccupazione è che quando ci sono due parti con interessi contrapposti, la mediazione possa evaporare, mi spiego meglio. Anche nelle cause di lavoro è stata introdotta la mediazione, però è stato recepito come un lacciolo burocratico da far passare il tempo per andare al giudice. Quindi, siccome siamo un popolo di litigiosi, le due parti, una è di buona volontà e l'altra ovviamente è rigida. Esempio pratico, condominio. Io voglio attivare la mediazione e ovviamente cerco, siccome non tutti i mediatori hanno l'obbligo di un lodo finale, io cerco quello con il lodo finale, con la mediazione finale, mentre ce ne sono altri e il suo interlocutore l'ha esattamente anticipato che non lo fanno. Io voglio il lodo finale, l'altro non lo vuole, allora io vado dal mediatore Antonio e l'altro dice: ma io vado dal mediatore Luigi. Ecco, c'è una cronologia di priorità, un vincolo temporale, perché la mediazione ha successo se c'è una rete aviation, un'interposizione, una penalità verso il dissidente. Certo, non è che si può cominciare a litigare ancor prima di avviare la procedura della mediazione, perché le due parti non si mettono d'accordo sul mediatore da chiamare. Allora chi vince teoricamente in questa situazione, Cristiano? Allora, in questo caso diciamo questo, che a scegliere l'organismo di mediazione a cui rivolgere è il soggetto che avvia la procedura di mediazione. Quindi se io chiamo la mia controparte di fronte all'organismo alfa, la controparte non potrà dire: beh, io preferivo l'organismo beta che ha una procedura diversa. Che non è che sono vuole, illegali, certo. No, esatto. Se vuole si può presentare davanti all'organismo alfa che io ho scelto. Ha sempre l'alternativa di non presentarsi, perché non è obbligatorio sedersi al tavolo. E non è obbligatorio quando ci si siede trattare con la volontà di trovare un accordo. In effetti il nostro ascoltatore pone un tema molto serio, cioè che, e poi a me interessa quello che definisca come si deve chiudere la trattativa, non quello che la fa rimanere così in sospeso. No, certo. Ecco. E poi più in generale, al di là del fatto che ci sia o meno la proposta finale del mediatore, dipende poi moltissimo da come le parti interpreteranno questa procedura. Effettivamente in ambito di lavoro abbiamo visto che si è ridotto a un passaggio burocratico. Per quanto riguarda il condominio sarà fondamentale anche l'attività degli amministratori, perché non dimentichiamoci che lì non saranno soltanto due soggetti privati, ma ci sarà comunque, spesso e volentieri, una parte professionale che deve essere preparata a sfruttare questa occasione per evitare del contenzioso. Dopotutto la speranza è si può basare sul fatto che l'amministratore non ha interesse a tirare in lungo la causa e la lite. Vorrei vedere, infatti. Avvocato Cirla, tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, insomma, quali altre considerazioni le suggerisce di proporci? Sono partito proprio dicendo che nella mediazione bisogna crederci. E io sto considerando questo sulla base delle mediazioni svolte per altre materie, quindi non dimentichiamo che la mediazione è un anno, bene o male, che è in vigore. Guardi, per quanto riguarda ad esempio il luogo dove svolgere la mediazione, che è sinceramente una pecca che c'è nella normativa, perché soprattutto in materia condominiale posso andare davanti alle mediazioni più disparate in tutta Italia e chiamare l'amministratore, che ne so, per un immobile a Milano, addirittura a Catanzaro o qualsiasi cosa. Si sta formando però un orientamento nei giudici, che è questo: proprio dal comportamento che tengono le parti durante la mediazione, anche attraverso la scelta del luogo dove andare, traggono le conseguenze, capiscono subito se effettivamente la parte era andata con lo spirito di mediare oppure per tirare in lungo, e le conseguenze poi si ripercuotono sul giudizio, quindi è positivo anche questo e stiamo attenti. Entro quanto si deve chiudere una causa di mediazione obbligatoria su una faccenda condominiale, avvocato Cirla? Il massimo è 4 mesi che deve durare la mediazione, e che se portiamo sulla lungaggine del giudizio ordinario, veramente abbiamo il massimo, perché se la mediazione riesce in questo tempo qua, la soddisfazione per il condomino è veramente enorme. Roberto da Roma, buongiorno. Buongiorno. Il mio quesito è questo. Noi siamo un condominio di un gruppo di villini a Schiera. Sì. In una riunione precedente, in una riunione abbiamo deciso che le aree che guardano sui lati esterni del condominio erano di pertinenza di ogni condominio. Le due pareti laterali erano di competenza invece del condominio, e che dovevano essere in fase di lavorazione, dovevano essere praticamente ripartite in percentuale uguale per tutti i soci. Poi è nato il problema, perché queste pareti adesso dovranno essere ristrutturate perché portano umidità nelle abitazioni, e i condomini si sono rifiutati di aderire a quella prima delibera. Perché dicono, insomma, questi lavori li devono pagare solamente i due condomini che abitano alle estremità, perché è roba loro. Pure loro hanno detto che sarebbero intervenuti per il 50% di queste opere. Allora, Roberto, guardi, io tra l'altro devo correre perché tra un paio di minuti devo chiudere la trasmissione. Andiamo subito all'avvocato Cirla, che ci darà l'indicazione corretta appunto per procedere a risolvere questo caso. Intanto io mi chiedo, avvocato, questo vale per il caso di Roberto così come di qualunque altra persona che acquista un appartamento piuttosto che una villetta a Schiera, come nel caso della nostra ascoltatore di Roma, appunto. È bene saperlo sin dall'inizio che tipo di competenza, come dire, anche economica si ha poi successivamente sulle aree confinanti con gli altri appartamenti, no? Quanto è di proprietà comune, quanto invece è di proprietà individuale. Non lo si può scoprire ad immobile già acquistato, ma povero Roberto, non è che lo dico per fargliene una colpa, è solo per sollevare anche questa questione. No, certo, assolutamente, fondamentale in queste situazioni qua è la consegna del regolamento. Il regolamento diventa contrattuale, il regolamento prevede come ripartire le spese, quali sono le parti comuni, quindi facciate, tetti e quant'altro, soprattutto in condomini di villette a schiera, che sono poi con i cosiddetti condomini orizzontali. Devo chiudere, avvocato, in 5 secondi, guardi, mi hanno detto adesso il tempo. Cosa fa Roberto? Sicuramente deve andare in mediazione, perché si tratta di un criterio di riparto. Benissimo. Vede coinvolto tutti i condomini. Allora, Roberto, ci scriva, le risponderemo in privato. Grazie a Cristiano Dell'Oste, l'avvocato Cirla.